un attimo di attenzione. Signore e signori, comincia il cammino di Gigi D'Agostino. Sì, ciao, buongiorno a tutti. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino e Gigi sono io e... Dai, dai, vai, vai. Siamo Andrea ed Enrico. Vorremmo salutare l'under 20 femminile del Volley Marcallo e dedicare a tutte le ragazze della squadra la tua impressione di settembre. Ok. Gigi, suona impressioni di settembre per la fede. Luca da Bologna. Sono Erika da Como. Volevo dedicare impressioni di settembre al mio ragazzo Marco e dirgli che lo amo da morire. Volevo dedicare impressioni di settembre al mio grande amico Harry, perché è grazie a lui che ora seguo il tuo cammino, Gigi. Benissimo. Grazie, maestro. Alfie. Ciao Gigi, vorrei dedicare un brano a tuo piacere all'amore più grande della mia vita, Agnese, e dirle che la amo perdutamente. Mauro. Quante gocce di rugiada intorno a me, cerco il sole ma non c'è, dormo ancora alla campagna, forse no. E sveglia, mi guarda, non so. ti amo perché ho bisogno di te, ma ho bisogno di te perché ti amo. Da Mattia a Isabella. Il vostro SMS al numero 333 64 67 662. La tua musica fa ritrovare la strada giusta. Saluto mia sorella Irene. Lidia da Ceresole. Dai e poco sta cazza. Da Como. Volevo salutare Fausto e dirgli di non stare male per la ragazza bionda di sabato sera. Il cammino di Gigi D'Agostino ogni giorno ti scassa un pochino. Di Gigi D'Agostino. Ciao Gigi, sono Mimmo da Torino. Ti ricordi 10 anni fa? Venivi da me al Solarium Aladino. Ne è passato di tempo, eh? Quando posso, ti ascolto sempre. È il cammino del Gigi D'Agostino. Interrottamente te a penna nera. Continuare a vincere. Tommy 06 da Acqui Terme. La conoscenza del vissuto degli uomini non è una scienza esatta, bensì un'esperienza legata alla contingenza è un processo che evolve ininterrottamente. Alla contingenza di che cazzo habla? Alla contingenza è un processo che evolve ininterrottamente. Gigi, camminando, ci fai sognare. Stefano da Villar. Dai tamarri bizzarri di Avigliana, Loris, Alex e Diego. Lento, violento, lento, violento, lento. Il tuo cammino è un tormento. Ogni pomeriggio per te siamo sintonizzate all'ora seconda per seguire il tuo cammino. Un saluto da Steffi, Cinzia e Cettina da Messina. Weekend Gigi D'Agostino suona in Austria. Per informazioni visitate il sito www.gigidagostino.com. Ci vediamo stasera in Austria. E che cazzo? In Austria? Ma vieni in Calabria, no? Di sicuro. Lady Veronica. Grande famiglia danzante. Ciao Gigi, la mia ragazza mi ha tradito un mese fa. Ora non sono più insieme a lei. Dei miei amici l'hanno incontrata in centro e si sono messi a parlare con lei. Uno dei due gli ha anche dato il numero. Ah, è cazzino. Ma loro continuano a fare la bella faccia con me. Sto proprio male. Per fortuna esiste il tuo cammino che mi tira un po' su. Io sono qua apposta. Il cammino. Vorremmo fare gli auguri a Tamara. Oggi avevo letto Tamarra. Ragazze, se non sai leggere stai a casa. Qui non abbiamo tempo da perdere. Vorremmo fare gli auguri a Tamara, che compie 22 anni. Un grande bacio. Sweet Stellina e Sab del forum gigidagostino.com. Faisal, rimarrai per sempre nel mio cuore. Martina. Il cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. D'Agostino saluta con una pennellata e un colpo di martello Davide di Sora, Bibo di Arcisate, Cinzia da Como. Vai Gigi! Ma come cazzo? Ci dai il tempo a noi falegnami. Ci puoi suonare Vorrei fare una canzone? Certo. Volevo dedicare Vorrei fare una canzone a Deborah e dirle che è la donna della mia vita. Andrea, che serata della FIA o dell'AFIA, che vuol dire? E che giornata con il cammino del maestro. E questo è chiaro. Vorrei fare una canzone per la mia farfallina, Leo da Viareggio. Mi piacerebbe ascoltare Vorrei fare una canzone, Rogero di Opera. Vorrei ascoltare Vorrei fare una canzone, la dedico alla mia amorosa e futura sposa, Manuela. Marco da Piobesi Torinese. Vorrei fare una canzone da suonare con la chitarra per le strade alle persone. Vorrei fare una canzone per donare a tutto il mondo un poco di immaginazione. Vorrei fare una canzone che trasmetta un ideale se le cose vanno male. Vorrei fare una canzone anche solo per cantare. Gigi, sono Ovidio da Macchia. Ti volevo chiedere se potevi dedicare da parte mia Vorrei fare una canzone al mio migliore amico Gabriele. Grazie maestro. Vorrei fare una canzone per cantarla sottovoce, dolcemente a chi mi piace. Vorrei fare una canzone per l'estate, per Natale, malinconica e speciale. Gigi D'Agostino. Benvenuti nel mondo che non c'è. Ciao Gigi, grazie al tuo cammino abbiamo conosciuto l'isola che non c'è. Marco e Mary da Poggio. Ti amo, Marco 90. Era tutta una dedica, eh? Io leggo quello che c'è scritto, poi. Dai, dai. Questo è il cammino, e poi il dritto fino alla mattina, poi la strada la trovi da te. Questa è l'isola che non c'è. Seconda stella a destra, questo è il cammino, e poi il dritto fino alla mattina, poi la strada la trovi da te. Questa è l'isola che non c'è. Spazio. Alle 2 del pomeriggio suona Gigio. Ecco qua, va. Lento, lento, lento, lento. ricordi e memorie, io sono il cantastorie, la mano che segna il disegno della legna. Adoriamo. È giusto. Giorgia e Antonella, dalla provincia di Lecce. Libera danza, battito lento, forte sentimento, l'unione ci sarà. Libera danza, battito lento, forte sentimento. Volevo dedicare Stand By Me ad Ambra, una mia carissima amica di Milano. Gian da Genova. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Citroen presenta nuova C2 WTS Super Sprint, la regina delle piccole cattive, in anteprima assoluta al My Special Car di Rimini. Nuova C2 WTS Super Sprint, la versione di C2 WTS iper accessoriata per tutti gli amanti del tuning. Marmitta sportiva a doppia uscita, fari posteriori trasparenti, cerchi in lega bianchi con chevron rosso, strisce adesive bianche con logo e battitacco personalizzati. Prezzo speciale. Nuova Citroen C2 WTS Super Sprint. Too fast for you. Vieni là a scoprire sullo stand Citroen al My Special Car di Rimini. Dal 13 al 15 aprile. Vorrei dedicare Movimento alla Milano in Movimento. Boz 88. Sono Christian da Barberino, Firenze. Volevo dirti che per me sei come un secondo padre. Va bene che... però... Con la tua musica volo tutti i giorni. Saluto il mio grande fratellone Gabriele 82, che sente con me tutti i giorni la tua poesia. Un saluto grandissimo ai miei grandi amici che si trovano in Svizzera, a Lugano, per lavoro. Andrea. Gigi, dedica Arcobaleno ad Arianna, che sarei io, cioè lei. Un bacio al mio amore che non smetterò mai di amare. Volevo dire a Eddie che mi manca un casino. Sara 91 da Udine. Volevo salutare il mio fratellino, a cui voglio tanto tanto bene. Ilaria da Torino. Voglio dedicare If You Wanna Stay With Me Forever al mio amore Matteo, perché ne sono perdutamente innamorata. Sabrina. Gigi, sono un tuo fan da quando ho le gambe per ballare. Sono diventato tamarro proprio come te. Preciso. La prossima volta che vengo a vederti sarò dottore. Salut. Chi è questo qua? Andrea 82 da Firenze. Fortuna ci sei tu ogni giorno a dare speranza alla gente. If you wanna stay with me forever, I don't wanna be alone tonight. Se volete scrivermi 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Gigi, come ogni giorno sto ascoltando via MSN i passi del tuo cammino insieme ad Antonella. Qualche giorno fa l'ho vista piangere di gioia mentre ascoltavamo nel suo ufficio l'adagio. Puoi farle rivivere quell'emozione? Ovvio. Grazie. Ti voglio bene, Antonellina. Roby DJ 80 del forum gigidagostino.com. Ah, Volevo dedicare Drifting Sideways a Monica. Ogni volta che ti abbraccio, sento che non mi manca niente. Ti amo. Francesco da Firenze. Il cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Hola Pota G. Volevo dedicare Drifting Sideways ad una persona davvero speciale. Anche perché questo è il minimo che io possa fare per ringraziarla per tutto quello che ha fatto e sta facendo per me. Eccola qua, la tua preferita. È tutta per te, Andre. Grazie di cuore, per tutto. Nella. The day drifting sideways, I'm dying here like your waves. Set my eyes on you, girl. Dive deep into your world. Watch my life go down the drain. Paranzata al sole e sto ascoltando la tua musica, Gigi. Mi fai sognare. Scorpioncina. State ascoltando una musica bella da ballo. E io sono Gigi D'Agostino. I wanna dance. Musicista, danzerino. I wanna dance. I wanna dance. E chi si è sintonizzato adesso è... I wanna dance. Ebbene che sappia che sto suonando io. Gigi, per favore, suonami la canzone I Wanna Dance. Ecco. Vorrei dedicarla a mia sorella Vanessa, così almeno la smette di rompere. Sì, sì. Greta di Brescia. Saluti alla terza BRB Cossa di Pavia. Qui fa un caldo pazzesco, ma il tuo cammino ci rinfresca. Grazie, Gigi. Healing time is just one way. Hanging on to yesterday. Thinking what tomorrow's planned for me. Today, I know how to live my life, and I'm gonna do what I wish. Gonna make the world move along with me. I wanna see the sun that shines above the mountains, white with snow. Look at the trees, the way they grow, the rivers flowing by. si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. D'Agostino saluta con una pennellata e un colpo di martello Andrea e Marino di Torino. Fufi 87 da Ferrara. Il cammino di Gigi D'Agostino. Ciao Gigi, sono Dominique dall'Austria. Grazie per la tua musica. Il mio desiderio è: ho fatto un sogno. Da quando hai ballato standomi di fronte a Luna Rossa, mi hai stregato. Ronin. Ho fatto un sogno di quelli strani. Guardavo un cielo pieno di mani. Mani che cercano di costruire un mondo nuovo che possa unire. Mani che pensano, che vogliono dire, che non sognavo nel mio dormire, ma che era un sogno di quelli strani che mi donava il mio domani. Gigi, suona l'amour toujours per Violetta. Sta ascoltando. Dille che la amo. Sì. Edoardo da Pisa. Caro Gigi, vorrei dedicare a Francesca l'amour toujours per dirle che la amo ancora tanto. Ivan di Tortona. Vorrei dedicare l'amour toujours a DJ Alex di Savignano. Giuli di Torino. Gigi, dedica l'amour toujours ad Alessandro e digli che gli voglio davvero bene, ma soprattutto che ci tengo a lui. Alice. I still believe in your eyes. There is no choice, I belong to your life. Because I live to love you someday. You'll be my baby and we'll fly away. And I'll fly with you. Gigi, siamo Ale Tanz e Doran Dreamon. Vorremmo dedicare l'amour toujours ai nostri genitori per il loro 27esimo anniversario di matrimonio. Gigi D'Agostino.